Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, in discreto ritardo per cause indipendenti dalla nostra volontà. Il personaggio del giorno si chiama Carlo Ancelotti, ha vinto la Premier League al primo tentativo e sabato, salvo sorprese vista la modestia dell'avversario, dovrebbe bissare con la Coppa d'Inghilterra. Non male per un incapace, ultima versione milanista, o per un maiale che non può allenare, che era la versione juventina degli anni 2000. A proposito degli anni 2000, di Carlo Ancelotti e di Perugia, pensate che ieri Alessandro Calori, che segnò quel famoso gol nell'acquitrino perugino il 14 maggio del 2000, dieci anni dopo, meno 5 giorni, ne ha combinato un'altra delle sue. Alla guida del Porto Gruaro, o Porto Summago, o più semplicemente Porto per gli amici, da quello che mi pare di aver capito, ha sbancato il Bentegoli di Verona davanti a 25.000 spettatori, anche di più, impietriti. E ha conquistato la prima Serie B della storia di questa società. Tanto che se Ancelotti è l'uomo del giorno, mi pare che il Porto Gruaro sia di questo giorno, sia la squadra. Il resto è stato emozionante nel divenire, ma banale nelle risultanze. Tant'è vero che oggi i bookmakers, adesso vado a ripescare le quote, i bookmakers hanno alzato le quote dello scudetto della Roma. I bookmakers non ci credono più, dice questa agenzia. A Gipro News la quota scudetto sale a 7-1, mentre lo scudetto dell'Inter si gioca a 1.08, quindi praticamente alla pari. Ed è curioso notare che i bookmakers sono altrettanto certi che Mourinho lascerà a fine stagione, perché la quota di Mourinho al Real Madrid paga ormai soltanto 1,40, mentre paga, ed è salita oggi da 4-6, la proposta di scommessa per la permanenza di Mourinho all'Inter. Altre notizie di giornata, curiosità: Van Basten, mi chiamo fuori, non allenerò il Milan, ho sempre un problema alla caviglia e per essere allenatore devi essere libero per prima cosa nella testa, questo problema alla caviglia da risolvere non mi consente un lavoro pesante come quello dell'allenatore. Dopodiché arrivano i regolamenti di conti per la battaglia di Coppa Italia della settimana scorsa, i regolamenti del giudice sportivo, intendiamoci, con 4 giornate di squalifica a Totti, una a Balotelli, una a Chivu, che era già diffidato, e poi 40.000 euro di sanzione, di multa alla Roma, e una multa e inibizione per Oriali, che è squalificato fino al 30 giugno prossimo e dovrà pagare un'ammenda di 15.000 euro. E ancora Rizzoli, che diresse male, molto male quella partita, quella finale di Coppa Italia, Rizzoli dirigerà un'altra finale, dopodomani, quella di Europa League ad Amburgo tra Atletico Madrid e Fulham. Il resto è campionato, sono numeri, sono i vostri interventi in diretta che tra poco sentiremo, sono le voci di ieri, e io comincerei da quella di Del Neri, perché pareggiando a Palermo, insomma, la Sampdoria è rimasta, se non altro, arbitra del proprio destino. Se domenica batte il Napoli, è certamente aritmeticamente in Champions League. Se non la batte, rischia di no, perché i confronti diretti sono favorevoli al Palermo, ed è ragionevole che su una ormai retrocessa Atalanta, sia pure a Bergamo, il Palermo domenica possa farcela. Del Neri: perché oggi ha dimostrato di poter ambire a questo risultato con grande sicurezza su un campo molto difficile, con un pubblico fantastico che ha sostenuto la propria squadra in maniera impeccabile per 90 minuti, dimostrando grande maturità, conseguenza di quello che sta facendo in questo giorno di ritorno. Noi abbiamo un impegno importante con la Sampdoria e abbiamo deciso di glissare su queste problematiche, insomma, mi sembra abbastanza giusto e logico per onorare soprattutto i tifosi della Samp, la città, i giocatori, cioè quelli che stiamo facendo quest'anno, mi sembra che sia qualcosa di importante. Cerchiamo di raggiungerlo prima, poi vediamo cosa succede. Ma chi non deve la Juventus o all'Inter? Ma bisogna essere in due quando si parla di... È come il matrimonio, se uno vuole sposarti e l'altro dice di no, cioè, cade il matrimonio, insomma. Il mio sì non c'è una richiesta, per cui io penso che il mio sì non c'è. Caro Gigi, ieri eravamo quasi 29.000, scrive Sandro da Verona, ma il Porto ha meritato. Beh, questo è un riconoscimento in più per il Porto Grullaro, ripeto, alla prima Serie B della sua storia. Un avviso che ricorrerà anche nei prossimi giorni. Radio 24 da giovedì, da questo giovedì 13, sarà presente al Salone del Libro per l'intera durata dell'evento, cioè da giovedì 13 a lunedì 17, con un grande spazio Radio 24 al Padiglione 2, stand H170, a fianco della Sala Blu. Faremo un sacco di trasmissioni in diretta, anzi la gran parte dei programmi di quelle 5 giornate saranno realizzati in diretta direttamente non è male, a questo stand della Fiera del Libro di Torino. A tempo di sport nella fattispecie comincerà giovedì alle 14 con la prima di queste dirette, ospite del nostro spazio Massimo Gramellini, vice direttore della Stampa, grande studioso e scrittore in particolare di costume, anche grande appassionato di calcio e inguaribile tifoso del Torino. E poi il prossimo lunedì invece ci sarà un altro ospite dell'altra sponda torinese, quindi bianconera, che ci aiuterà a capire subito dopo la fine del campionato il perché di questo disastro juventino di quest'anno. Torniamo in onda anche con qualche curiosità. Intanto l'Inter in ogni caso la sua stagione a San Siro l'ha chiusa e per la seconda consecutiva, mi segnala Franco Piantanide con le sue statistiche, è imbattuta a San Siro. L'ultima sconfitta è del 22 marzo 2008, 1-2 con la Juventus. Totti, con i due gol al Cagliari, è salito a 192 gol in Serie A, quindi ormai il vecchio grande Amrin con 190 alle spalle, e il prossimo traguardo è il quinto posto di Roberto Baggio, che è a quota 205, però 13 gol sono tanti. Il Palermo è imbattuto, ha chiuso a sua volta senza sconfitte casalinghe il suo grande campionato. Il Siena retrocede per la prima volta in Serie B, perché era salito da debuttante in Serie A 7 anni fa e da allora aveva sempre resistito. I record di Natale sono tantissimi e comunque in ogni caso 28 gol in una stagione sono un numero molto molto ragguardevole, che ha pochi precedenti superiori. In tempi recenti i 31 di Toni con la Fiorentina nel 2006. In assoluto ex equo con Brighenti, centravanti della Sampdoria nei primi anni 60, e poi bisogna tornare molto più indietro per trovare i 33 gol di Angelillo nel 58 e i 35 addirittura di Nordahl con la maglia del Milan nel campionato 49-50. Ascoltatori già collegati, Danilo, Genova, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, grazie per l'opportunità. Sì. Volevo farle due domande rapidissime, la prima sul valore del campionato italiano, che secondo me andrebbe un po' più rivalutato, tenendo conto che, vedendo sia in Spagna che in Inghilterra, tra parentesi complimenti ad Ancelotti, però c'è da tenere conto che, guardando le classifiche sia nella Premier che nella Liga, il distacco tra la prima, la seconda e le altre è abissale, mentre se guardiamo il campionato italiano è leggermente più ridotto. Volevo sapere la sua opinione su questo, se è il caso di parlarne un po' meglio del campionato italiano o no. E la seconda invece riguarda lei e il dottor Genta, a quando una trasmissione vostra in televisione che sicuramente alzerebbe il livello e la qualità del calcio, che, tenuto conto di quello che si vede oggi, sicuramente la sua presenza, quella del dottor Genta, sarebbe un livello più alto per quanto riguarda il calcio. La ringrazio. Grazie a lei, Danilo. Allora, sulla seconda è molto semplice, poi Carlo risponderà per sé. Per quel che riguarda me non se ne può nemmeno parlare, ma nemmeno per scherzo proprio. Trovo che la radio sia un mezzo di espressione oggi, in questo momento storico, assai più civile, assai più documentale, assai più significativo, assai più intimo persino, per creare un rapporto con il pubblico, di quanto non sia la televisione per le condizioni in cui l'hanno ridotta. Sul punto primo non sono granché d'accordo. Io credo che i distacchi, quei pochi punti di distacco che ci sono, o di differenza che ci sono in alto tra le squadre spagnole e inglesi e rispetto alle italiane, e in basso nell'altro senso, non significhino molto. Io vedo giocare a pallone bene, in maniera più decorosa squadre inglesi o spagnole di quanto non veda squadre mediocri di casa nostra. Ma al di là di quello io credo che sia talmente squallido il livello del nostro calcio oggi complessivo, e cioè sia così difficile distinguere il fatto tecnico dal fatto ambientale, che davvero un paragone del genere oggi mi risulta imbarazzante. Anzi, ne approfitto per l'editoriale di oggi, che per una volta non è affidato a un ascoltatore, anche se è appena arrivata una testimonianza molto interessante che poi vi leggerò, ma è insomma, questo editoriale di oggi è invece a firma Roberto Beccantini e campeggia sulla copertina della Stampa di stamane. Le bombe carta dei teppisti, bianconeri soprattutto, che hanno determinato la sospensione provvisoria di Juventus-Parma, certificano la vittoria degli ultra, l'ennesima. Le porte chiuse di Marassi, viceversa, documentano la sconfitta dello Stato, l'ennesima. Non si può vivere sempre il regime d'emergenza. L'agguato mortale che coinvolse Vincenzo Spagnolo, accoltellato da un ultra rossonero a poche ore da Genoa a Milan, risale a 15 anni fa, ripeto, 15 anni fa. Giuriamo sulla tomba dell'ispettore Raciti che noi addetti ai lavori avremmo fatto tesoro dei loro sacrifici, non sembra proprio, tornelli a parte, è il solito calcio all'italiana, isterico, solitario, i final. Dalla farsa di Lazio-Inter alla guerra di Roma-Inter, passando attraverso ogni genere di provocazione e aggressione, concorrere per gli europei del 2016 e nello stesso tempo non riuscire a garantire la sicurezza dei cittadini, lo trovo francamente un non senso e giro la perplessità al presidente Abete. Non sarebbe più opportuno curare prima il sistema? Però è vero, soltanto noi abbiamo varato il labiale TV anti-bestemmie, ma credo e temo che i vandali abbiano altre priorità. Francesco ha chiamato da Palermo, buongiorno. Buongiorno dottore Garanzini. Dica. Io innanzitutto volevo fare due domande, se era possibile. Sì. Siccome ieri sono stato allo stadio con mia figlia a Palermo, no? Dove eravamo 40.000 spettatori, e vedere una partita, no, bella, una partita agonistica, dove tutte le squadre poi all'ultimo abbiamo battuto le mani, perché abbiamo visto un bel spettacolo e gente che correva dietro la palla. Sì. Ma tutti i tifosi della Roma perché mettevano la magliettina di Totti? Ma il calcio l'ha dato Balotelli a Totti, questo volevo sapere. È una solidarietà per un giocatore che insomma, ha passato la sua intera carriera nella Roma rinunciando a offerte che gli avrebbero permesso in passato di avere una carriera più vittoriosa. E io credo che sia perfettamente legittimo che un pubblico si leghi al giocatore più forte della sua storia. Poi è ovvio che in momenti come questi, cioè dopo quello che Totti ha combinato l'altra sera, tutto ciò al di fuori della cinta razziale, al di fuori della, come si chiama, non la tangenziale a Roma, come si chiama, il raccordo anulare, al di fuori del raccordo anulare fa un po' fatica a essere capito, no? In questi giorni immediati del dopo, anche perché non è la prima volta che Totti sbrocca a quella maniera. Però è così e credo che si possa capire, anche perché così come Totti ogni tanto purtroppo cede a questa sua tentazione da bravaccio, da energumeno, il Totti normale invece è quello che ancora a 34 anni trascina una squadra con due gol, con due pali, sbagliandone un altro incredibile e comunque facendo girare tutto il meccanismo della miglior Roma da metà campo in avanti. Lei ha parlato di una testimonianza rispetto al clima perfetto che c'era ieri allo stadio a Palermo. Senta questa mail che è arrivata davvero pochi minuti fa ed è firmata a Leila da Torino. Le scrivo per raccontare la giornata surreale vissuta ieri all'Olimpico di Torino. Insieme ad alcuni amici di Parma, conosciuti in vacanza l'estate scorsa, siamo andati a vedere la partita. All'andata eravamo stati ospitati da loro. Stavolta, nonostante la pioggia, io, mio marito e le mie due figlie di 7 e 5 anni e i due amici di Parma siamo entrati nel settore ospiti, curva. Avevo un pochino di timore perché le due bimbe si sono rifiutate di levarsi le sciarpe della Juve, ma non è successo nulla. Anzi, le bambine sono andate da alcuni oltre il Parma mostrando orgogliose le loro sciarpe e i ragazzi sono stati al gioco offrendo a loro volta due sciarpe del Parma per una della Juve. A un certo punto d'improvviso è iniziata la guerra. Abbiamo afferrato le bambine che piangevano all'impazzata, siamo corsi verso il punto più lontano dalla curva dei tifosi juventini, con il rischio di scivolare o essere schiacciati. Al terzo petardo abbiamo deciso di andarcene a casa a vedere la partita in TV. Sulle scale dell'uscita mia figlia mi chiede chi sono quei signori che fanno rumore e io le rispondo che sono dei delinquenti. A quel punto un tipo, che non ho capito se addetto alla sicurezza o allo stadio, mi dice che la delinquente sono io che porto bambini allo stadio. faccio presente al mio concittadino che i delinquenti mi paiono quelli che lanciano petardi, e lui risponde testualmente: ma si sa che loro fanno, sono fatti così, altre persone intorno hanno dato ragione all'uomo. E allora alla fine concludo, scrive Leila, la delinquente evidentemente sono io. Leonardo, provincia di Trapani, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garantini. Dica. Intanto condanno tutto ciò che è successo allo stadio di Torino ieri, vale. Ovviamente. Vale. Insomma, lo sport dovrebbe vivere di altre cose. Sì, c'eravamo. Poi? No, le volevo chiedere, visto che in questo momento si parla tanto di una sorta di toto allenatori per la Juventus, secondo lei Zaccheroni ha già giocato tutte le sue chance in quell'eliminazione della Europa League? Perché se si parla di Del Neri, di Allegri, insomma, io non so se sono molto migliori Zaccheroni. Ma io ho l'impressione che Zaccheroni abbia già giocato non solo le sue fish, ma anche quelle eventualmente che gli hanno ridato nel frattempo, ma magari non per colpa sua, povero, però mi sembra che non sarebbe davvero proponibile oggi un'altra. Una continuazione, insomma, del mandato a Zaccheroni. Lippi, ho sciolto gli ultimi dubbi sulle convocazioni, saprete tutto domani. Preoccupato per la stagione negativa degli juventini, sarei più preoccupato se i giocatori venissero da annate fantastiche. Non sono preoccupato, anzi preferisco così. E poi c'è un'altra dichiarazione, il calcione di Totti, sempre Lippi, il calcione di Totti e Balotelli non ha inciso sulla convocazione del capitano giallorosso. Caro Gigi, scrive Fabrizio da Bolzano, anche la promozione diretta dell'Alto Adige è storica, è vero, anche l'Alto Adige direttamente in Serie C è un, in Serie C, io la chiamo ancora così, la chiamo C1 così ci capiamo, è effettivamente storica, però insomma il Portogruaro è una categoria più su e quindi mi pareva avesse maggior diritto di. E poi c'è un no, e poi ci sono le solite centinaia di messaggi, ma questo sembra veramente uno spot a richiesta. Luca da Arese scrive: ma perché la TV è così bello ascoltarvi alla radio? Luca, grazie, io la abbraccerei, anzi lo faccio, no? sia pure via etere, e ricordo ancora una volta a tutti gli ascoltatori che il fatto di essere presenti al Salone del Libro da giovedì a lunedì darà modo a tutti quelli che lo vorranno di partecipare in diretta a tutte le trasmissioni che andranno in onda da questo stand, da questo Spazio Radio 24, Padiglione 2, stand H170 e J169 a fianco della Sala Blu, ripeto, del Salone del Libro di Torino al Lingotto. La prima partecipazione per quanto riguarda A Tempo di Sport, che inaugurerà tra l'altro alle 14 di giovedì in diretta questa lunga 5 giorni di Radio 24 al Salone, la prima partecipazione è quella da Tempo di Sport di giovedì con Massimo Gremellini, vice direttore della stampa, e con me. Mi dica che non sono un paranoico, scrive Samuele Francioni. Sul rigore di Totti, Lupatelli, dopo aver intuito il tiro, sembra alzare le mani invece di abbassarle per parare la palla. Mi piacerebbe, Samuele, non darle del paranoico, invece mi tocca certificare che lei effettivamente lo è. E se vuole, scrive Elio da Pescara, le fornisco anche il nome della squadra più delusa di ieri, ed è il Pescara, che era direttamente in Serie B fino a un minuto prima del 90esimo, prima che segnasse il Portogruaro. Verissimo, perché nel thrilling a 3 di ieri il Verona era restando sempre sullo 0-0, era comunque spacciato, condannato direttamente ai playoff. Il Portogruaro era davanti fino a quando il Pescara era andato in vantaggio, col Pescara in vantaggio era il Pescara a quest'ora in Serie B, e invece il Portogruaro con un gol all'89esimo ha beffato tutti. Cosimo, provincia di Matera, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Senta, io volevo parlare dei tre allenatori, per me milanista, che sono del momento. Mourinho, devo fare autocritica, perché l'anno scorso chiamai questa trasmissione dicendo che aveva deluso e che non aveva messo nulla di nuovo. Lo so quanto lei giudichi poco rilevanti gli allenatori, però quest'anno penso che tutti i grandi risultati dell'Inter, ahimè, devo riconoscere, tanto di cappello, siano dell'antipatico Mourinho. Le tre punte, il centrocampo di palleggiatori e soprattutto una stagione stile Milan quando vinceva le coppe, con un calo quasi mortale, scusi il termine un po' antipatico, tra gennaio e marzo, per arrivare dal Chelsea in poi crescente. Ancelotti, che conferma come gli italiani vincano all'estero, mm-hmm. e Leonardo che tra Berlusconi e Leonardo tutta la vita. Questi risultati di quest'anno li dobbiamo soprattutto a lui, però qualche scelta sbagliata l'ha fatto. Un esempio: che senso ha col Palermo schierare Oddo centrale? Rischia un primavera. Poi una testimonianza triste, mi scusi per dire dove siamo arrivati. Ieri ero a giocare a tennis, il mio bambino di 3 anni in un club dove c'è anche il club dell'Inter, il mio bimbo di 3 anni aveva la magliettina di Pato, qualche lacrima agli occhi, dei ragazzini che vedevano la partita, eccetera, interisti, le hanno prese e strappate dalle mani e scucita. È venuto piangendo chiedendomi il perché. Non credo. Anche lontano dallo stadio c'è qualche imbecille. Ma come no, Cosimo? E temo che con la cultura anche televisiva, per tornare al dualismo radio-TV, che continua a essere diffusa, intendiamoci, le radio romane sono oltre, danno il loro, quindi non è tutto oro quello che luccica, nemmeno da un punto di vista radiofonico, ma con l'eccezione delle radio romane, io credo che il livello di cultura che quotidianamente viene, e di educazione, viene trasmesso da una radio anziché dalle televisioni, sia nettamente superiore. Lei ha parlato, proverei a richiedere interventi più brevi se fosse possibile, lei ha parlato di allenatori italiani all'estero che vincono. Beh, insomma, Ancelotti non è che l'ultimo esempio, intendiamoci, perché Capello ha vinto 2 volte la Liga con Real al primo tentativo, nel 97 e nel 2007. Trapattoni di scudetti all'estero ne ha 23. Uno in Bundesliga col Bayern, uno col Benfica in Portogallo che non vinceva da 11 anni e uno a Salisburgo in Austria. Bigon ha vinto il campionato svizzero, Zenga ha vinto il campionato rumeno, ci sono altri successi all'estero di Ranieri, di Nevio Scala, una coppa intercontinentale addirittura col Borussia Dortmund, di Vialli. E quindi insomma diciamo che Ancelotti sta rinverdendo una buona tradizione. Poi è ovvio che il coefficiente di difficoltà di Chelsea o Real Madrid o Bayern è superiore ad altri. Alberto, provincia di Milano, buongiorno. Signor Garanzini, buongiorno. Dica. Allora, domande semplici e velocissime. Ci conferma o quantomeno ci dà garanzia che sentiremo i suoi splendidi commenti radiofonici, puntualizzo, per i mondiali di calcio? Ma io la ringrazio per lo splendidi, ma questo certamente sì, come ogni giorno, come sempre a quest'ora e come sempre. Perfetto. L'altra domanda è: sono fratello di interisti sfegatati, papà interista, un fratello che ha sfiorato una panchina dell'Inter come portiere, e mi viene da ridere sul fatto Balotelli Totti del calcio. Allora, detesto il gesto, non c'è commento per dire quanto era brutto era, ma ricordo tutti gli amici interisti che fino al giorno prima avrebbero pagato per poter dare quel calcio personalmente in qualsiasi posto d'Italia sono incrociato il povero Balotelli. Questa non è male. Per cui magari un po' più in direzione gluteo che non coscia, insomma, per capirci. Però sì, Alberto, infatti guardi, la vicenda Balotelli, che al momento conosce un lieto fine, ma che ovviamente non è la fine, no? È una tappa. Io la trovo non meno non dico sconcertante, ma non meno curiosa della vicenda Totti, nel senso che viene rinfacciato al pubblico di Roma di aver riadottato immediatamente Totti a 4 giorni da un gesto francamente disgustoso, e io in buona parte condivido. Poi però mi viene in mente che quando 3 settimane fa Balotelli lanciò quella maglia in terra, fu scannato completamente dal primo giocatore all'ultimo tifoso, o se preferisce dal primo tifoso all'ultimo giocatore. Ora vederlo riosannato a distanza di così poco tempo a me fa molto piacere. Perché credo che Balotelli sia un giocatore che vale innanzitutto, e quindi dato che ci stiamo occupando di calcio, che poi abbia questo o quell'altro carattere, secondo me importa relativamente, se non per gli eccessi di cui si può macchiare. Però intendo dire che anche lì, se parliamo di coerenza e se vogliamo ricordarci, cioè è proprio il calcio che è strano, no? che è fatto così, per cui le verità assolute sono destinate a durare lo spazio di un mattino a tutte le latitudini. Francesco, provincia di Napoli, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, è sempre un piacere. Grazie. Senta, io le volevo dire, per quanto riguarda la questione di Totti, la faccenda di Totti che è stato così sanzionato per 4 giornate, io penso che fin quando il giudice sportivo applica queste sanzioni, una giornata, 2 giornate, 3 giornate o 4 giornate come è successo con Totti, mi sembra che non si ricava nulla. Allora bisognerebbe in un certo qual modo sanzionarli con la tasca, in effetti, multe di 100, 200, 300 mila euro che probabilmente questi signori non fanno nulla, ma che in un certo qual modo così si cerca di diminuire questi fatti un pochino, sinceramente, cioè non lo so, non lo come so spiegarmi. No, nel senso che sono orrendi, ecco, indescrivibili. Francesco, io credo che alle multe pecuniarie debba pensare la società, e credo che in questo caso, come in altri casi così eclatanti, ci pensi la società. Io credo che il giudice sportivo debba fare la sua parte e debba sanzionare un giocatore che si è reso responsabile di un comportamento scorretto, e quindi credo che quello debba restare l'ambito del giudice sportivo. Poi se un giorno ci sarà un giudice ai servizi sociali, beh, allora magari amplieremo il discorso e potrà andare bene anche la sua proposta. Provincia di Biella, Mauro, buongiorno. Buongiorno, signor Garanzini. Provincia di Biella dove? Da Cossato. Cossato, no? Molto bene, patria di Alberto Girardino. Dica. Vero. Le dico, la domanda che mi è venuta è una domanda di impulso quando lei ha letto la dichiarazione di Lippi. Sì. E allora gliela giro così, molto velocemente. Ma visto che Lippi dice che il calzone di Totti non verrà tenuto conto nelle convocazioni, è giusto non tenerne conto per Totti e tener conto comunque del comportamento di Balotelli e di Cassano, a prescindere dalla scelta tecnica, perché mi sembra che comunque per questi altri due giocatori ci sia una pregiudiziale di comportamentale prima ancora che tecnica. E chiedevo, è giusto, cioè, per il bene della nazionale, è giusto tener conto di questo o sarebbe meglio soltanto guardare puramente il fatto tecnico calcistico? Grazie, l'ascolto per radio. Io mi fermerei al fatto tecnico calcistico, che però non può prescindere da un fatto ambientale, e cioè nel caso di Totti è indiscutibile che nel 2006 era stato molto ben accettato nel Club Italia, anche se arrivava all'ultimo istante da un grave infortunio. Accettare Balotelli o non accettare Balotelli potrebbe essere un problema, visti certi suoi comportamenti, e questo è valso anche in passato per Cassano. Poi io sono dell'opinione che qualche giorno fa ha lanciato Ottavio Bianchi da questi microfoni, e cioè è troppo facile allenare soltanto i bravi ragazzi. Se uno ha talento e ha un brutto carattere, beh, insomma, facciamo il possibile per prendere da lui quello che di buono ha e per cercare eventualmente anche di educarlo, soprattutto se è così giovane. Non è detto che tutti la pensino allo stesso modo. Lippi direi proprio di no. Sul mio ritorno alla Juve, ha appena detto in questa lunga conferenza stampa, sono rimbalzate troppo spesso voci e troppo spesso a sproposito. L'anno scorso, ricorda un ascoltatore nerazzurro, Mourinho c'era, ma non c'erano Milito, Snyder, Eto'o e Lucio, e questo non lo ricorda mai nessuno. Effettivamente lo ricordano in pochi. È sempre più facile celebrare i profeti che non ricordare che cosa hanno a disposizione e che cosa no. Giusto per fare dei paralleli più attendibili. Il ripasso di storia, Nicola Filippone. Sembra ieri. 10 maggio 1981, terz'ultima giornata di campionato. Al Comunale di Torino va in scena la sfida a scudetto tra la Juventus di Trapattoni e la Roma di Lidolm. Al 75esimo minuto, sullo 0-0 e con i bianconeri in 10 per l'espulsione di Furino, la Roma trova il gol con Turone, che realizza di testa in tuffo su sponda di Pruzzo dopo un lancio di Conti. L'arbitro Bergamo prima indica il centro del campo, quindi si accorge che il guardaline Sancini ha la bandierina alzata per segnalare un fuorigioco. Decide quindi di annullare tra le proteste dei romanisti. Finisce 0-0 e la Juventus riuscirà a conservare il primato fino al termine del torneo, conquistando così lo scudetto numero 19. La Roma si consolerà con la Coppa Italia. Così imparo a parlare male delle radio romane. Oggi questa di Nicola Filippone avrebbe fatto la sua figura in qualsiasi radio Radio Romana. Beh, evidentemente è una battuta, perché ormai siamo ampiamente nella storia, avete sentito l'anno, era il 1981. Insomma, di acqua ne è passata sotto i ponti, eppure c'è chi ancora continua a rimestarla da qui, a pestare nel mortaio. Ecco, da qui il fatto che Nicola l'abbia selezionato come un fatto storico, oggettivamente. Franco, provincia di Venezia, buongiorno. Dica, sì, Franco. Buongiorno. Pronto? Franco, dica. Ecco. Sarebbe stato bello, indubbiamente, ma ci si riprova. Giovanni, Reggio Emilia. Dottor Garanzini, buongiorno. Innanzitutto un piacere conoscerla. Grazie. Senta, sulla questione Totti Ballotelli, io volevo porre la sua attenzione solo a questa differenza, che Ballotelli è stato perdonato dai suoi tifosi, dal pubblico interista, perché si è pentito dopo il gesto che ha fatto del lancio della maglietta. Mentre Totti, non pentendosi, è stato fatto eroe domenica ieri allo stadio, e tutto il pubblico indossando la maglia numero 10. Giovanni, io solo questo volevo Giovanni, resti in linea, fermo restando che sono questioni assolutamente di rana caprina, però c'è un'altra differenza. Totti, facendo una cosa orribile, ha mancato di rispetto a un avversario, non alla Roma. Balotelli, facendo quella cosa, ha mancato di rispetto e facendo indignare la sua società, la sua squadra e i suoi compagni. Certo. E però quindi... Totti, dando quel calcio, rifilando il calcione a Balotelli, ha mancato di rispetto anche a tutto il pubblico nell'azzurro, perché poi la partita, certo, di ma io sto parlando caccia all'uomo, eh. Certo, sto parlando però di facilità di perdono, o no? Era quello che ma non nient'altro che incuriosire, intendiamoci. Voglio dire che ci sono altri campi della vita in cui quando si dice basta, di te non ne vogliamo più sapere, e c'è l'ostracismo, beh, insomma, l'ostracismo magari non dura per sempre, perché poi in fondo non è un ergastolo, ma insomma dura un pochino più di 3 settimane scarse, che invece è il tempo che è durato per Balotelli. Meglio così, insisto. Ma è solo, era per far notare una delle tante incoerenze di questo mondo. Giuseppe Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Scusi, per fare un po' di emozione, però io volevo, diciamo così, dire qualcosa. Sono tifoso milanista, e per quanto riguarda Leonardo, premetto che l'uomo, la persona, il giocatore è sempre stato nei nostri cuori, e è una persona educatissima e anche preparata. Però devo dire che già da tempo io non sono così soddisfatto del Milan, perché è mancato, secondo me, da parte sua quel non so come dire, quel qualcosa in più che qualcuno potrebbe dare, quella grinta, qualcosa che allo stadio o nelle partite del Milan spesso non si è visto, nel senso che comunque al di là dei giocatori, che io sono uno di quelli che dispiaciuto ma non disperato dalla partenza di Kakà, capisco che comunque lui abbia dovuto giocare con una formazione non come quella degli anni passati, però comunque anche, secondo me, una formazione di primo ordine. Giuseppe, la formazione di primo ordine, con la presunta formazione di primo ordine, secondo me Leonardo ha fatto miracoli. Fino a quando ha avuto anche i componenti della casa di riposo a disposizione. Mi sembra che il Milan fosse attaccato a Inter e Roma, e il fatto che l'Inter considerasse il Milan l'avversario e non la Roma, insomma, qualcosa mi pare significare. Poi ad un certo punto quelli che qualcuno a Milano chiama la baggina, insomma, ha reclamato i suoi diritti, no? di anagrafe, e quindi sono cominciati infortuni a catena, sono mancati i pezzi decisivi, si è rotto Nesta, che secondo me è stato il momento definitivo, non Beckham, non queste robe qua, insomma, no? è stato Nesta, e a quel punto gli infortuni si sono moltiplicati, sono arrivati a catena, e quindi c'è stato questo crollo finale. Ma secondo me aver tenuto per 30 e passa giornate su 38 un Milan competitivo, questo Milan di fronte a quell'Inter agganciato a pochi punti, secondo me è stato, se non un miracolo, certamente un'impresa. Questa è la mia opinione, e non ho alcuna pretesa che sia condivisa. Franco, provincia Venezia, l'abbiamo recuperato, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ecco, salve, no, sono da Porto Gruaro, ero allo stadio 20 Godi di Verona ieri. Sì. è una gioia immensa all'ultima giornata, così davanti a 30.000 spettatori. Ringrazio tutti i nostri giocatori, il nostro tecnico, è stata una stagione fantastica. Adesso vediamo l'anno prossimo cosa succede, ma capito? Ah, quindi era un intervento. Sì, volevo dire quello, è stato davanti a 30.000 persone, che fra l'altro devo anche dare i meriti ai tifosi del Verona, perché era uno stadio stupendo, ieri non ho visto un tifo così, e è stata una soddisfazione bellissima. Auguro a tutti, va bene, voglio dire solo questo. Prima, a tutti non è facile, perché poi vince uno solo, Franco, e questa è sempre una regola da ripassare, però insomma, che capiti anche ad altri, dice lei, un'emozione di questo genere. Vi ricordo, e poi per oggi basta, che siete tutti invitati al Salone di Torino, allo spazio Radio 24 al Padiglione 2 a fianco della Sala Blu, a partire dal prossimo giovedì e sino al lunedì successivo, quindi dal 13 al 17, ad ascoltare i nostri programmi in diretta e ad intervenire di persona, anziché sempre via telefono o via SMS, con le vostre domande, con le vostre curiosità, con le vostre osservazioni. Per oggi è tutto, grazie dunque a Carmelo Lauricella in regia, a Flavio Suardi in redazione, a Franco Piantanida in particolare per le sue curiosità e le sue statistiche. L'appuntamento è a domani.